Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica. DJ Telesco. Pomeriggio a tutti da Gigi Telesforo, appuntamento numero 128 del nostro soundcheck, prova del suono qui su Radio 24, pronti per dare il via a una serie di primizie come sempre facciamo in questa nostra piccola grande rubrica musicale. Lasciatemi ancora una volta ringraziare tutti gli appassionati di musica che continuano a scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it. risponderemo a tutti, daremo le informazioni che ci richiedete, soprattutto sui brani in airplay nel nostro programma. Oggi apriamo l'appuntamento dando spazio a un disc jockey. Sì, questo è il termine con il quale ancora oggi vengono definiti appassionati di musica che lavorano utilizzando materiale discografico su vari supporti. Oggi è il disc jockey che oggi vi vado a presentare, è un disc jockey militante ormai credo da una quindicina di anni. Ha iniziato questa attività quando aveva 20 anni e oggi è diventato un eccellente producer anche discografico, ma un producer radiofonico proprio per la sua passione per la musica. Questo signore si intitola, con un nome tipicamente da disc jockey, e io lo conosco da tanto tempo, Monsieur Alex Paletta. Bonsoir Paletta, benvenuto al soundcheck. Buonasera, buonasera a tutti. No, volevo chiederti, si sente tanto la frore di vinile? Si sente la frore del vinile, mio caro Paletta, però c'è anche qualcosa di digitale in te oggi e ne parliamo fra pochissimo. Io per presentare Alex Paletta chiedo subito la collaborazione del mio collaboratore qui per il soundcheck. Lo abbiamo assoldato più che altro perché ha un nome tipicamente musicale e ti pregherei, visto che fai il disc jockey, di non fare della facile ironia. Vado a introdurvi Francesco Tromba. Buonasera. Buonasera Francesco, lei come sta? Benissimo. È preparato sull'argomento disc jockey, vinile e soprattutto su Alex Paletta? Sì, sono preparato. Bene, allora andiamo subito a descrivere chi è Alex Paletta. Allora, è un DJ, regista e produttore radiofonico e per essere più sintetici potremmo definirlo Radio Man. Da più di 10 anni fa tutto questo ed è uno dei fondatori di UFM Radio, un ibrido tra le vecchie FM e le nuove web radio. Questa radio trasmette da Roma dal 2010. Qual è la sua emozione, mio caro Tromba, nel avvicinare un disc jockey di tale importanza? Innanzitutto vorrei fargli alcune domande, come ad esempio c'è una cosa molto interessante, un argomento molto interessante potrebbe essere quello, la questione, diciamo, se i DJ sono dei veri artisti oppure no, possono essere considerati tali o no. Ebbene, iniziamo molto bene con questa domanda, mio caro Alex Paletta, sì, perché parleremo del ruolo del musicista e del ruolo del disc jockey. Allora, vediamo di rispondere subito a questo quesito del nostro Francesco Tromba. Allora, diciamo che la maggior parte dei DJ non sono artisti, ma sono semplicemente dei selezionatori di musica. Ma ce ne sono alcuni, sono parecchi, che sono dei veri e propri artisti. Mi vengono dei nomi, Kid Koala, ad esempio, che con due giradischi e due vinili, riesce a suonare davvero. Molto spesso nei disc jockey diciamo vado a suonare stasera lì, ma fondamentalmente non è che andiamo a suonare, andiamo a scegliere dei dischi e li mettiamo uno dietro l'altro cercando di creare un'atmosfera che si adatti sia al nostro gusto che al gusto del pubblico. Senta Paletta, mi scusi un attimo, no, perché lei ha detto vado a suonare. Alex, dai, lo so, perché siamo in radio, siamo su Radio 24, vorrei mantenere un contegno e nascondere anche la nostra antica amicizia e anche le nostre collaborazioni. Però mio caro Paletta, mi dico una cosa, perché noi musicisti ce la prendiamo un po' quando sentiamo i disc jockey che intanto ormai da qualche anno lavorano quasi più di alcuni accreditati musicisti, ce la prendiamo quando vado a suonare. Ma che vai a suonare? Ma noi lo diciamo un po' per farvi arrabbiare a voi musicisti, e questo vedo che funziona ancora dopo tanti anni. E poi perché effettivamente ce ne sono alcuni che suonano proprio. Nel senso, io posso anche fare una selezione musicale di un disco dietro l'altro e insomma, come dire, creare una giusta atmosfera. Però poi ci sono dei momenti in cui, miscelando un disco con l'altro, l'effetto è proprio quello che può averci un batterista, un bassista e un pianista insieme. Eh sì, quindi il disc jockey utilizza la creatività espressa da veri musicisti e fonde le varie sonorità per avere un tocco artistico, ecco, me lo lasci dire signor Paletta. Ma il signor Paletta, che fa questo lavoro ormai da tanti anni, è uno dei miei pusher discografici preferiti, perché da sempre mi propone le nuove sonorità. E fra le artiste che ultimamente, l'ultimo anno, mi ha fatto conoscere, c'è la bravissima Laura Mvula, giovane e bellissima pianista, cantante inglese, ormai in auge in Inghilterra, speriamo di vederla presto dal vivo anche in Italia, che apre il nostro soundcheck con Green Garden. Questa è Laura Mvula al soundcheck di Radio 24. Sì, il sound tipico un po' africano, un po' no, un po' soul, un po' no, un po' funk, un po' no, della bravissima Laura Mvula in questo appuntamento del soundcheck con il nostro disc jockey Alex Paletta, che ci racconterà di tutto e di più sul mondo vinilico dei disc jockey. Anche se lo abbiamo detto, ormai i disc jockey utilizzano anche il digitale, è difficile vedere disc jockey che vanno in giro ancora con la borsa dei dischi, i CD, il vinile, perché è troppo faticoso. E i musicisti si portano dietro le batterie, gli strumenti, gli amplificatori. Invece i disc jockey, che sono furbi, lavorano di più, guadagnano di più e non fanno neanche la fatica di portarsi dietro un borsone. Perché? Allora, innanzitutto perché è sempre più difficile trovare dei club in cui i giradischi sono messi bene, sono messi a puntino, tarati al punto giusto, eccetera. Perché da, diciamo, una decina d'anni a sta parte è stato sempre più in voga l'uso del CD, quindi i vari lettori professionali di CD player e bla bla bla sono delle macchine favolose, cioè. Poi, come dire, ci sono ancora alcuni disc jockey old school che girano con 33 LP, 12 pollici, 10 pollici, e addirittura ce ne sono alcuni che fanno dei set solo 45 giri. E come sono considerati dai colleghi, ma anche dal pubblico, anacronistici o dei disc jockey vintage? No, dipende. Cioè, il disc jockey, secondo me, uso la parola suona, non ti offendere. Va bene. Suona la musica. Adesso il supporto, che sia digitale, che sia computer, che sia CD o che sia vinile, almeno dal mio punto di vista non è molto importante. L'importante è la musica che scegli. Quindi, insomma, poi sai, ci sono alcuni che io sono più figo perché suono vinile. Ma non sei figo manco per niente. Suoni la voce, poi magari c'hai i dischi di merda. Scusa. Vabbè, e quello è l'errore, no? Nel senso, esatto. C'hai i dischi brutti e quindi io invece magari vado con due pennine, c'ho i dischi più belli. Pennine USB, certo. Pennine USB, c'ho i dischi più belli dei tuoi, faccio ballare più di te e quindi te ti sei fatta la fatica di portarti due valigie di dischi. C'hai i dischi brutti e insomma, chi ha vinto? Vabbè, e hai vinto tu, allora, sì, mi sa, perché no, hai capito qual è il sistema: lavorare senza sforzo, neanche porti le borse più col vinile, e questo mi dispiace un po'. Senti, visto che fai il disc jockey e vuoi continuare a farlo a lungo, anche se secondo me la carriera del disc jockey è un po' come quella dei calciatori: a 30 anni finisce, che non si può vedere uno anziano vecchio con la barba. Non è vero. No, ne possiamo non discutere, non è come i musicisti a lungo, possono morire sul palcoscenico a 80 anni. Vabbè, ma ne parliamo fra un po'. Fai una cosa, visto che fai il disc jockey, presentami questa bellissima band australiana che mi hai presentato un po' di tempo fa. Guarda, questa è una band australiana che è uscita così. di punto in bianco, non cose da DJ. Esatto, è arrivata, addirittura non hanno neanche stampato il disco, è un disco che si trova soltanto su Bandcamp, che è una nuova piattaforma per le band emergenti, soprattutto indipendenti, dove vendi direttamente te il disco. Si chiamano Hiatus Coyote, la leader è una ragazza stranissima, si chiama Ney Palm, ha capelli strani, orecchini strani, una cosa incredibile, un tipo stranissimo. Il pezzo bellissimo si chiama Nakamarra, qui insieme a Q-Tip. Che è accreditato più o meno in tutto il mondo da un po' di tempo, un disc jockey militante, il nostro ospite Messier Alex Paletta, mio collaboratore in passato, che continua a imperversare con la sua discografia fra club locali, localacci, festival di musica e anche radio, come producer radiofonico. Ci sono varie tipologie di disc jockey, da sempre c'è quello radiofonico, lo dicevamo, quello che presenta i dischi, che parla un po', in questo momento anch'io da musicista mi sento un po' disc jockey radiofonico. Sei DJ. Non sono DJ, sono un musicista, ok? Sono un music jockey, va bene? Poi c'è quello che lavora nelle discoteche, che fa ballare un mare di persone sudate, lì viene fuori la folle. Anche poche. E quelli sono i club che preferisce invece Alex Paletta, perché quando ci sono poche persone devono essere poche ma buone, perché la musica che viene proposta è di un certo tipo. E poi c'è anche il disc jockey che con l'età, vicino al mondo della discografia, diventa producer e affianca le grandi produzioni discografiche. Tu che tipo di disc jockey ti senti? Allora, io innanzitutto sono un DJ radiofonico, io non difficilmente faccio produzioni discografiche, ma per un motivo semplice, perché non è affar mio, cioè non è una cosa che sento mia, quindi preferisco, come dire, diffondere la musica che fanno altri, sia in radio e anche nei club, perché comunque poi il contatto con la gente, il contatto con il pubblico vis-à-vis è comunque importante, ti dà una certa carica, un certo godimento, lasciamelo dire. Ecco, quando si usa dire molto spesso fra i radiofonici, ecco, questo brano è radiofonico, questo brano è meno radiofonico, questo brano può andare bene in quella fascia oraria, tu come la pensi, visto che sei onnivoro musicalmente e ti piace un certo tipo di musica? Tutte cavolate, sono tutte cavolate. Esiste, come diceva Duke Ellington, la musica bella e la musica brutta. Punto. Quindi non c'è un pezzo radiofonico. Queste sono semplicemente delle fisse da gente che lavora in radio e che vede, ascolta e pensa soltanto dentro la radio, non proiettandosi fuori. Sì, però si fanno anche degli studi, no? Per alcuni network che si dedicano alla musica e che vogliono portare pubblico, fanno proprio degli studi sugli orari, sulla fascia oraria, sul tipo di musica, lo stereotipo che funziona. Tutte cavolate, di nuovo. Grazie al disc jockey Alex Paletta per questa affermazione. Vedo il nostro Francesco Tromba che sta scalpitando, come mai? Vorrei fare una domanda al signor Paletta. Al signor Paletta, vai Francesco. Considerata l'attuale crisi politica, economica e di valori della società, volevo chiedergli come, diciamo, è cambiato la figura del DJ all'interno della società e quali valori può portare all'interno della società. Grazie, avrei notato che lui propone queste domande perché ha sempre il retaggio da intellettuale calabrese. I calabresi sono fatti così, fanno domande spicolose, un po' piccanti all'anduia, no? All'anduia, esattamente. Ma guarda, secondo me il ruolo del disc jockey nel corso degli anni è rimasto sempre lo stesso, non è cambiato mai. Cioè, il ruolo del disc jockey è quello di portare divertimento nella società, cioè farti passare le ore in cui tu non lavori, non stai con la famiglia, non hai gli obblighi da vita di tutti i giorni e decidi: ok, adesso vado, scarico, me ne vado un po' anche fuori di testa, ballo, sudo, scarico tutta la tensione della settimana, e lì, se trovi il disc jockey fico, hai fatto bingo, no? Nel senso che è quello quindi il ruolo del disc jockey nella società. Io me lo sono chiesto un sacco di volte, perché apparentemente, insomma, non faccio l'elettricista, no? Quindi per la società non è che se c'è buio arrivo io e ridò la luce. Quindi, insomma, delle volte nei momenti di piccola crisi... Non ti buttare così anche tu, Paletta, no, da disc jockey, credimi. No, l'ho capito poi con gli anni, che comunque il disc jockey c'ha questo ruolo qui, quello di far divertire le persone con la musica, che è la cosa fondamentalmente che poi piace a tutti. Io non ho mai sentito uno che mi ha detto: no, a me la musica non mi piace. Magari gli piace della musica che non piace a me, ma la musica in generale piace a tutti. Tromba, come ha trovato la risposta? Esaustiva? Abbastanza esaustiva. Molto bene. Allora, andiamo a un altro artista che ho conosciuto per merito di Alex Paletta, un cantante, musicista, compositore con una vocalità molto particolare, molto ben educata, un musicista che utilizza l'elettronica sapientemente. Questo signore, questo ragazzo, ancora giovanissimo, è un bel sallucchione di 1,90 m, si chiama James Blake. Quest'anno si è aggiudicato un premio molto importante in Inghilterra, il Mercury Prize, che è un premio che lancia ormai da anni le star della nuova discografia inglese. Il brano è bellissimo, molto particolare, si intitola Retrograde, e lui è James Blake al soundcheck di Radio 24. Suono splendido, inconfondibile, di un nuovo artista che arriva dalla scena inglese, ormai approdato al terzo album, ma qui spacca con questa nuova produzione. Come dicono i ragazzi, ho utilizzato un termine da DJ contemporaneo: spacca. No, da DJ contemporaneo no, da DJ un po' Matusa l'hai utilizzato. Ah sì, allora dovevo evitarlo, vedi, ho sbagliato. Che cosa direbbe un DJ contemporaneo? Insomma, che è un pezzo giusto, che è un pezzo contemporaneo, che è un pezzo... È un pezzo giusto, ragazzi, dai! Anche così è un po' da Matusa. Niente, sto sbagliando tutto, mi tocca allora fare solo semplicemente il musicista, quello che fai il musicista che ti viene meglio. Bene, allora il nostro Alex Paletta, nostro ospite per parlare del ruolo nella società del disc jockey contemporaneo, ma per parlare di musica, da un po' di tempo ha intrapreso un nuovo corso, il corso radiofonico online, mettendo su con altri colleghi una bellissima struttura che si chiama... Si chiama UFM, ma scritto UFM. Che cosa fate in UFM, che naturalmente gli amici che ci ascoltano troveranno sul web? Esattamente, u-fm.it è il sito. Fondamentalmente è una radio. Noi non la classifichiamo come web radio, perché di web radio ce ne sono un'infinità, e sono anche Pandora, per assurdo, è una web radio. La nostra è proprio una radio, trasmette 24 ore su 24 da Roma. L'unica cosa è che non abbiamo soldi per comprare le frequenze, e quindi, come negli anni 70 erano partiti con dei trasmettitori da 2 lire, noi con 2 lire abbiamo comprato uno streaming, e quindi trasmettiamo online. Quindi non siamo una web radio, ma siamo una digital radio. Vedi che anche tu sei un po' Matusa comunque nell'atteggiamento, no? Certo. Ti rifai al passato. Ma certo, ma ci mancherebbe altro, è dal passato che bisogna guardare per andare verso il futuro. Sì, perché bisogna sempre essere rispettosi dei grandi artisti del passato, della grande musica, per poter proiettarci nel futuro. Ti sono piaciuto? Mi sei piaciuto moltissimo. Allora, per proiettarci musicalmente nel futuro, ti faccio ascoltare invece questa cosa che viene dal jazz, ma questo è un artista contemporaneo e un bassista eccellente, già contrabbassista, per esempio, del pianista Mal Miller, purtroppo scomparso, Derrick Hodge, è uno degli artefici degli experiment di Robert Glasper, è ultimamente approdato alla Blue Note Records con un album molto interessante anche da un punto di vista sonoro nelle composizioni, e chiede qui in questo brano, che poi è anche il titolo di questa pubblicazione per Blue Note, Live Today, il rapper Common, che credo sia anche uno dei tuoi preferiti. È il secondo mio preferito, il mio preferito è Q-Tip. E l'abbiamo sentito prima, e quindi stiamo a posto. Eccolo qui, Derrick Hodge al soundcheck di Radio 24. Transitions. Transitions of a man's mission. To turn the moment into something he owns. Not just for him, but for them to understand. This is peace of a man. Woman beside providing balance, so that we can do our best with God's talents. Sound check. Il suono della musica. Se i disc jockey contemporanei conoscono la grandezza di Cassandra Wilson e la bellezza di questa composizione scritta da Antonio Carlos Jobim, interpretata in questa versione molto jazz, intitolata Waters of March nell'edizione inglese, ma è la splendida Agua de Marzo. Non so voi disc jockey come trovate questo tipo di sonorità. Ma guarda, non so come la trovano gli altri, a me posso dirti che piace, perché comunque, come hai detto tu prima, sono onnivoro di musica, mi mangio qualsiasi cosa, poi insomma decido, certo non è un disco che si può suonare, almeno che... Come non si può suonare? No. Che significa Alex Paletta che non si può suonare? A che ora suoneresti tu un brano? In una serata non lo suoneresti mai questo brano? Guarda, lo suonerei alle 6. Alle 6 di pomeriggio, cioè all'inizio. No, alle 6 di mattina. Ma chi ci arriva alle 6 del mattino? Impazzi. No, ci sta, qualcuno ci arriva, e questi sono i classici dischi che piacciono al disc jockey, un po' meno al pubblico, e quindi come ultimo disco metti questo disco qui, così almeno capisci che la serata è finita, no? Perché magari insomma c'è qualcuno ancora che sta lì e che vuole spingere ancora after hour e bla bla bla, con questo gli dici: guarda ragazzi, io vado a dormire perché insomma si è fatta una certa. Ma, scusami, Tromba, Francesco Tromba, a questo punto io mi aspettavo una domanda precisa al nostro disc jockey Alex Paletta, ma il ruolo del disc jockey oggi non dovrebbe anche essere quello di educatore ai suoni, in qualche modo espandere la conoscenza di certe sonorità, di certi generi, di certe voci a un pubblico che invece è massificato, ed è per questo che noi abbiamo creato la classe di groovologia applicata da 0 a 12 anni per ripulire le orecchie ai bambini dal suono massificante della televisione. Purtroppo oggi non abbiamo la lezione perché domani è Pasqua e le mamme mi hanno detto: maestro, purtroppo non posso venire perché siamo fuori per il weekend, però recupereremo la lezione di groovologia il prossimo weekend. Guarda, quello che hai detto tu è giusto, nel senso il disc jockey ce l'ha questa funzione, ma fino alle 2 di notte, perché dopo le 2, tra alcol e sostanze psicotrope... Vabbè, questo non si può dire. Ma come non si può dire? È la verità. Cioè, la verità è quello che succede. Ma perché, scusami, i ragazzi vanno in discoteca e devono arrivare così alterati, quando invece basta un suono, un groove della bella musica per cambiare il nostro umore? Questo non lo so, non so darti una risposta. Fatto sta che è così. Quindi dopo le due la lucidità, diciamo, viene un po' meno nei club, ma anche in qualsiasi posto, anche a casa, secondo me. Ma non lo so, ma dipende. Ma sì, è proprio un disc jockey. Fidati che è così. E quindi dopo le due, insomma, non c'è più quella funzione di educazione, ma è semplicemente sfogo, è semplicemente dare tutta l'energia che hai e scaricarti. Ti prego, Francesco Tromba, con questo cognome intervieni. Io vorrei fare una domanda. Ecco, l'ultima scia, perché siamo per chiudere questa parte e poi c'è il GR. Quindi DJ come i musicisti, secondo lei suonano meglio quando sono sotto l'effetto di sostanze? Ma come i musicisti? Ma non è vero, Tromba, ma queste sono cose vecchie, cioè sono cose del periodo bebop, che i musicisti erano tutti tossici. I musicisti della nuova generazione vanno in palestra, fanno jogging la mattina, mangiano soltanto carne bianca e si alimentano con... Posso rispondere? Sì. È vero, suonano meglio. Ma non è vero, ragazzi, no, veramente io, Tromba, mi stai deludendo, guarda, non me l'aspettavo. Comunque, Paletta, mi sei piaciuto. Grazie. Per tutto l'arco di questa prima parte, a parte questo finale. No? Lo so, ma questa è la verità. Io, se vuoi, posso anche dirti il contrario, però insomma la verità è questa, quindi... Vabbè, allora, le cose stanno così bene. Allora noi facciamo ancora una pausa di musica. Questo è un editing particolare fatto dal nostro disc jockey Alex Paletta, che ringrazio. Grazie. In bocca al lupo per la tua carriera, per la tua famiglia, anche se secondo me, te lo dicevo, i disc jockey devono essere giovani e non avere famiglie e figli. Tu ormai hai famiglie e figli. E non quindi... è vero, ne conosco almeno una cinquantina che hanno famiglia, figli. Ma non lo dicono a nessuno, però. No, lo dicono. Guarda, ti faccio un esempio: François Kevorkian, che è uno dei disc jockey storici, anche io non lo conosco, questo François. Come non conosci Kevorkian? Dai, Kevorkian, New York, ha 68 anni. Ma sarà. Comunque vi lascio con gli Arrange Factor di Roy Hargrove. Il brano è bellissimo, si intitola Universe, in un editing particolare fatto dal nostro Alex Paletta, proprio per ridurre e condensare la bellezza di questo brano. Grazie Alex Paletta. Grazie. Francesco Tromba, noi dopo dobbiamo farci un discorsetto e vi lascio con la musica, poi c'è il GR e torniamo con la seconda parte del Soundcheck qui su Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Torna il Soundcheck, seconda parte, la nostra prova del suono con Gegè Telesforo in compagnia del nostro redattore Francesco Tromba, che mi ha appena consegnato per la rubrica Squilli di Tromba. Ti piace il titolo che ho dato alla tua rubrica? Sì, molto bello. Molto bello, Squilli di Tromba, per annunciare gli appuntamenti più importanti per quel che riguarda la musica in Italia e all'estero, perlomeno nei paesi e nelle città più frequentate dagli italiani. Partiamo subito con l'annunciare il Tuscia in Jazz, festival che quest'anno, per questa edizione primaverile, quindi per Pasqua, si svolge a Viterbo, e quindi a Pasquetta si può festeggiare a Viterbo con Servillo, Girotto, Mangalavite, Pietro Paoli e Viterbini. Ci spostiamo al Blue Note di Milano giovedì 24 con il concerto del chitarrista John Abercrombie, e poi per gli amanti del blues Bud Spencer Blues Explosion il 25 aprile a Firenze al Viper Theater. Parte anche il Jazz Festival di Torino con Hurricane e Dave Douglas il 26, Diane Shure sempre per il Jazz Festival con la Torino Jazz Orchestra, Mauro Ottolini e Sousaphonics musicano Le Sette Probabilità di Buster Keaton domenica 27, e Aldi Meola plays Beatles and More sempre lì al Torino Jazz Festival, che quindi festeggerà poi il 30 di aprile The International Jazz Day. Lo faremo anche noi a Roma con questo bellissimo concerto organizzato insieme a Groovemaster Edition, Jazzit, con partner media anche Radio 24, per l'UNESCO all'Auditorium Antonianum, ben 50 musicisti a rappresentare il jazz, ben 3 generazioni di musicisti tutti insieme. Verrai? Sì, sarà interessante vedere appunto lo scambio generazionale anche che ci sarà fra questi gruppi che saliranno sul palco. Esatto, scambio generazionale importantissimo proprio per l'evoluzione della musica e l'evoluzione del jazz. Allora, dall'Italia ci spostiamo a Londra, giovedì 24, mamma mia, ci vorrei proprio andare al Wigmore Hall a vedere il mio sassofonista preferito che è Joshua Redman, così come il 27, domenica 27 aprile, c'è Ben Harper al London Palladium, bellissimo. Facciamo un salto anche a Parigi, da non perdere per i parigini e i turisti parigini, Salif Keita, venerdì 25 alle Carré du Temple e dal 22 al 26 al Jazz Standard, bellissimo jazz club, Ethan Iverson con i suoi Bed Plus, e così come Vijay Iyer, il pianista indiano che sta andando per la maggiore in giro per il mondo, giovedì 24 al Green Space. Ancora qualcosa? Sì, abbiamo ancora un minuto, quindi Chicory e Bela Fleck invece saranno insieme il 24 di aprile a Los Angeles, al Race Hall, proprio all'Università di Los Angeles. E poi, questo è un appuntamento secondo me molto divertente che ci segnali, mio caro Tromba, le Bosky Fest con Jeff Bridges il 25 aprile al The Wiltern, sempre a Los Angeles. Grazie a Francesco Tromba per la partecipazione, noi ci risentiamo il prossimo weekend, quindi torniamo prestissimo, carichi di energia e di musica e con i nostri ospiti qui al Soundcheck di Radio 24. Vi lascio con la musica scritta da John Mayer, il brano si intitola Stop This Train, ma nella versione acustica e naturalmente più jazz del bravissimo Joshua Redman con al pianoforte e Brad Mehldau, che ha realizzato anche gli arrangiamenti di questo Walking Shadows per Joshua Redman. A tutti voi grazie e buona musica da Gigi Telesforo. Check, il suono della musica.